L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio da Laura Bettini, ben ritrovati per questa puntata che dedichiamo, almeno nella prima parte, alla 24esima edizione del rapporto ecosistema urbano di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore. Come avrete sentito nel corso della settimana, in testa alla classifica 2017 della maggiore vivibilità si è piazzata Mantova. La buona notizia è che in generale aumenta il gruppo delle città che totalizzano buoni risultati, con oltre il 70% degli indicatori positivi, ma aumenta purtroppo anche il drappello delle città che non superano il 40% di segni positivi. E ne parleremo tra poco. Intanto però cominciamo col capire come viene costruito questo rapporto, in cui si prendono in considerazione varie aree tematiche: aria, acqua, energia, rifiuti, mobilità e ambiente urbano. Quale peso viene attribuito a ciascuna di queste aree ce l'ha detto Lorenzo Bono di Ambiente Italia. Ciascuno di loro ha un peso diverso, in particolare i 5 indicatori relativi alla mobilità pesano complessivamente circa il 30% e sono seguiti dagli indicatori sull'aria e ai rifiuti che stanno intorno al 20%, l'acqua il 15%, l'ambiente urbano il 10% e infine c'è l'energia che c'è solo un solo indicatore, quindi siamo al 5% per quanto riguarda energia. Sono stati introdotti anche dei bonus, perché comunque il mondo cambia e si evolve e si può fare di più rispetto a quello che è il minimo sindacale, diciamo. Sì, si può fare di più e ci sono dati che magari non sono disponibili per tutte le città con un certo livello di qualità e affidabilità. E quindi abbiamo deciso, dove noi ritenevamo questi dati affidabili, di premiare quelle città che, per esempio, per il trasporto pubblico dichiarano una copertura dei costi con ricavi di trasporto su gomma e ferro superiore al 40%, oppure quelle città che hanno messo in atto effettivamente politiche per il recupero delle acque grigie e la gestione separata di acque chiare e acque nere. Tema quanto mai importante, poi abbiamo visto anche quest'estate, quando l'acqua scarseggia, avere questo sistema ti porta già molto avanti, insomma, ti aiuta. Certamente, non ci sono ovviamente ancora dati quantitativi su questi aspetti perché è un tema nuovo che dovrà essere affrontato. Quello che noi abbiamo voluto in qualche modo premiare sono delle politiche organiche che mettono insieme diversi aspetti, sia quello della gestione separata ma quello proprio del recupero e riutilizzo delle acque grigie. Allora, detto questo, abbiamo notato quest'anno un aumento del gruppo in testa c'è Mantova, come insomma si consolida, ma è aumentato anche il gruppo di quelle che inseguono Mantova, un altro buon dato. Sì, alla fine la classifica di quest'anno, indipendentemente da piccole variazioni tra le città di testa, vede comunque un gruppo abbastanza omogeneo, che insieme a Mantova ci sono Trento, Bolzano e Parma. Al tempo stesso vediamo anche che altre 4 città, come l'anno scorso, riescono in qualche modo a superare la soglia del 70% del punteggio complessivo. Quindi abbiamo 8 città complessivamente al di sopra del 70% rispetto alle 4 dell'anno precedente. E di contro però, cioè, ogni medaglia sul rovescio, aumenta anche il gruppo di quelli che restano indietro. Sì, infatti quello che noi abbiamo notato nell'edizione di quest'anno è che non c'è un andamento tendenziale simile per tutti, quindi praticamente le migliori fanno meglio, se posso riassumere con una frase, e le peggiori fanno peggio. In effetti quest'anno abbiamo ben 19 città che non raggiungono il 40%, mentre l'anno scorso erano soltanto 14, quindi un aumento abbastanza considerevole. E in più ci sono 5 città che stanno al di sotto del 30%. Di cui 3 siciliane. Sì, questa è una conferma in qualche modo. Nelle parti basse della classifica, nelle ultime 2 o 3 edizioni, spesso troviamo città siciliane. Quest'anno questo sono perché 3. Non mandano dati o proprio perché i dati sono negativi? No, entrambe le cose. In alcuni casi la mancanza di dati nel meccanismo di contabilizzazione dell'ecosistema urbano viene penalizzata. Quindi in alcuni casi, per esempio, quando non viene dato il dato sull'aria, la città tende a essere in qualche modo penalizzata e non a prendere un non valutabile. Questo anche perché è importante che le città si abituino, oltre ad avere l'obbligo di rendicontare indicatori ambientali, per noi è importante in qualche modo partecipare, è importante che le città diano i dati e quindi, piuttosto che non valutare una città che non ci dà i dati, dove mancano appunto informazioni tendiamo a penalizzarle. Quindi per la Sicilia sono entrambe le cose, soprattutto per quanto riguarda lo Stato, gli indicatori di Stato delle risorse naturali, che in alcuni casi potrebbero non essere così negativi, però magari manca il dato o il dato viene fornito in modo incompleto. Quindi dà un po' l'idea che non sia sotto controllo o che me lo vuoi nascondere, dipende dai casi. Sì, più che non volere nascondere, penso che spesso il dato magari non sia sotto controllo, oppure c'è un ritardo nell'inviare il dato. Noi inviamo il questionario a marzo, gli ultimi dati in corsa vengono caricati in agosto, spesso le città non riescono a darci il dato neanche a settembre, ottobre, o ci arrivano dati ancora più tardi. Come abbiamo sentito, aumenta quindi il gruppo delle città che vanno bene, ma aumenta anche il numero di quelle che vanno male. Che fare? Lo abbiamo chiesto al ministro dell'Ambiente Galletti, intervenuto anche lui alla presentazione del rapporto ecosistema urbano. Noi abbiamo fatto un provvedimento proprio in questi giorni che aiuta tutti i comuni. Io ho avuto una risposta bellissima dai comuni. Abbiamo finanziato 82 progetti per un valore di 75 milioni per i percorsi casa scuola casa lavoro. Abbiamo fatto una graduatoria per i comuni superiori ai 100.000, quelli sotto potevano aggregarsi, e abbiamo avuto davvero progetti interessanti che abbiamo deciso di finanziare tutti. Questo è il segnale che dà il governo. In cambio io chiedo ai sindaci oggi di applicare una politica ambientale molto severa. Allora, avanti con l'efficientamento energetico, anche negli edifici pubblici, ci sono stanziati 200 milioni col conto termico, io voglio che vadano via subito tutti e ne metterò degli altri. Avanti con la mobilità sostenibile, ho dato la dimostrazione che noi ci siamo, 75 milioni sono tanti in pochi mesi a disposizione dei comuni. Mantova vince, è vero, ed è seguita da un drappello di città medio-piccole, principalmente del nord, ma non è questo il profilo delle città che possono farcela. Più importanti sono le scelte coraggiose, dice Rossella Muroni, che è la presidente di Legambiente. Per raggiungere buoni obiettivi ambientali, il discrimine è saper fare una politica di lungo periodo. Sì, che vada ben oltre il proprio mandato elettorale, forse questa è la cosa che mette più in difficoltà i sindaci, avere dei progetti le cui ricadute magari non sono nei 5 anni del mandato e anzi magari all'inizio devono forzare alcune resistenze da parte della popolazione e quindi magari non pagano neanche dal punto di vista elettorale. Penso far pagare l'ingresso in auto nel centro urbano oppure realizzare impianti di compostaggio per la gestione dell'umido, della frazione umida dei rifiuti. Ecco, tutte cose che invece sono assolutamente necessarie. Allora il limite temporale, ma io dico anche il limite territoriale, quindi pensare di progettare solo per il proprio comune senza interagire con i comuni accanto, sono un po' i due ostacoli psicologici che i sindaci dovrebbero superare. Dal mio punto di vista è il bello della politica, però mi rendo conto che in un paese in cui la scadenza elettorale spesso è più importante di quello che si fa, chiediamo uno sforzo davvero in più. E a proposito di scelte coraggiose, parliamo di Cosenza, che è passata in pochi anni da oltre la 90esima posizione alla 13esima posizione di quest'anno. Il sindaco è Mario Occhiuto. Il percorso è quello indicato, anche se spesso ci scontriamo con le cattive abitudini consolidate dei cittadini, a cui dobbiamo far capire che la sostenibilità è un concetto altruistico, bisogna rinunciare a qualcosa, così la raccolta differenziata non è comoda per l'utente, avere non più queste autostrade del traffico in città, ma spostarsi a piedi o con la bici magari può essere meno comodo, ma è assolutamente importante perché riduce l'inquinamento e pone al centro anche delle politiche delle città, il benessere e la salute. Da Alberto Fiorillo, che è il responsabile aree urbane di Legambiente, è partita durante il convegno la proposta di fare a Milano una sorta di laboratorio in cui studiare piani nazionali di buone pratiche per la sostenibilità dell'ambiente urbano. È convinto, ma non troppo, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi. Milano in questi anni ha fatto su molti fronti passi davvero da giganti e certamente noi da città lombarda guardiamo spesso a Milano anche sulle innovazioni che produce. Direi che però il tema rispetto alle medie e piccole città è diverso. Noi abbiamo meno capacità attrattiva di investimenti, di capacità di impiego, appunto, di risorse. Abbiamo sicuramente la possibilità di metterci in rete, però il punto vero è capire come ogni città, che è diversa, riesce a costruire un programma, una pianificazione che va oltre il mandato di un singolo sindaco. Non esiste la città perfetta, ma vogliamo ridare in conclusione la parola a Rossella Muroni. Aspettiamo in tutto questo la città che riesca a fare sintesi e che contemporaneamente su tutti i parametri da noi indicati riesca, non dico a raggiungere l'eccellenza, ma insomma un posizionamento che ci faccia dire che finalmente siamo in Europa anche noi. Bene, ci fermiamo qui per ora, ci ritroviamo tra pochissimo cambiando completamente argomenti. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Come promesso, quindi, cambiamo argomento, parliamo di mare e poi chiuderemo sulle fattorie aperte della Coop. A Monaco, inteso come Principato di Monaco, si svolgerà infatti il 9-10 novembre la seconda edizione del Festival for the Earth presso il Museo Oceanografico, che ne è tra l'altro uno dei patrocinatori insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia. Venezia dove si era tenuta la prima edizione di questo festival invece. Noi ne riparleremo in una delle prossime puntate, ma intanto vi vogliamo far assaggiare qualcosa. In particolare parliamo infatti oggi di uno dei progetti che verranno presentati a Monaco, il progetto Orti di Nemo, una incredibile fattoria sottomarina nelle acque della Liguria. Nostra ospite Elisabetta Princi di Ocean Reef Group, che è anche coordinatore scientifico degli Orti di Nemo. Nemo's Garden è nato proprio dall'idea di Ocean Reef Group, dal patron di Ocean Reef Group, l'ingegnere Sergio Gamberini, che ha conciliato la sua grandissima passione per il mare con la sua passione anche per le coltivazioni, e quindi ha avuto questa pazza idea di provare a coltivare delle piante sott'acqua. Ovviamente sott'acqua si intende in delle aree protette, cioè non è che crescono come alghe, ecco, no? Sono delle, non so come le descriva lei, una bolla, un pallone. Allora, la fattoria sottomarina è costituita da delle biosfere, noi le chiamiamo biosfere, non sono altro che delle semisfere in plexiglass, quindi molto trasparenti, che sono ancorate sul fondo del mare e all'interno chiaramente abbiamo un'area dove non c'è dell'acqua proprio per un discorso di posizionamento, quindi c'è una campana dove è possibile avere quindi una zona in aria e sono state pensate delle strutture con coltivazione idroponica per la coltivazione appunto delle piante. Questo non sta accadendo a mille miglia da noi, ma sta accadendo in Liguria. Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro Nemo's Garden situato vicino a Savona, precisamente nella baia di Noli, e è attivo tutto l'anno. Nella stagione invernale è attivo in una forma un po' più contenuta, ovvero abbiamo ridotto, per problemi legati alle condizioni meteomarine, abbiamo ridotto il numero delle biosfere. Quest'estate avevamo 6 biosfere, adesso il numero delle biosfere è stato ridotto a 3, e quindi siamo a Noli e tuttora siamo a Noli operativi. Che cosa state coltivando in queste biosfere in questo periodo? Allora, nelle biosfere siamo partiti con la coltivazione di un qualcosa che c'è molto affine, essendo liguri, siamo partiti dal basilico. Diciamo che il basilico per noi rappresenta la pianta di riferimento, perché stiamo anche portando avanti degli studi sulle caratteristiche poi delle piante che nascono sott'acqua. Un po' il basilico è la nostra pianta modello. Dal basilico poi siamo passati a diverse tipologie di piante, quindi abbiamo prima provato a capire se le piante più comuni da utilizzare come cibo, quindi basilico, insalata e così via, potessero riprodursi sott'acqua. Quindi una volta che abbiamo capito che queste piante possono riprodursi sott'acqua e si producono anche con una certa velocità, anche con delle caratteristiche assolutamente comparabili alle piante terrestri, siamo passati ad esplorare anche altre tipologie di piante, ad esempio le piante aromatiche oppure piante usate in campo medicale. Quindi abbiamo cercato di ampliare il nostro parco piante, cercando poi di pensare a degli utilizzi del nostro sistema sottomarino, della nostra fattoria subacquea, nel caso in cui fosse utile far crescere più rapidamente delle piante con un maggiore valore aggiunto sott'acqua. Dunque, poi sui risultati magari torneremo in futuro con più dettaglio, però mi sembra di capire che per ora le cose sono, no? I risultati sono confortanti, però se no non avreste continuato. Perché coltivare sott'acqua? Può essere un'importante alternativa per quelle zone della terra dove veramente ci siano problemi di coltivazione, dove abbiamo una riduzione dell'acqua disponibile, oppure nelle zone desertiche. Comunque oggi il deserto avanza in tutte le aree del mondo, quindi questo potrebbe essere veramente per creare opportunità di cibo. Dall'acqua della Liguria a quella della laguna di Venezia, dove in questi giorni sul Canal Grande è comparso un murales. Non è un atto vandalico, anzi questo wall painting, come si suol dire, e la vicina installazione di cui parleremo tra poco hanno tutte le carte in regola e sono parte di un progetto di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. Autore ne è l'artista e ingegnere ambientale Andreco. In pratica ho collaborato qui con parecchi soggetti sia pubblici che privati per fare questo progetto. Per la parte scientifica mi sono appoggiato a ricercatori di CNR e ISMAR che mi hanno fornito, insieme abbiamo scelto i dati più autorevoli per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare e le onde estreme. E quindi ho voluto riportare questi dati su una parete lunga 100 metri ed è sul Canal Grande, ed è il primo murales di Venezia sul Canal Grande. Ovviamente questo muro riporta i livelli del mare previsti nel futuro, quindi partendo da oggi, la parte bassa del muro dal 2017, si alzano delle linee che fino al 2200, ed è molto immediato vedere quanto le previsioni medie danno le quote del livello del mare nel futuro. E poi invece nella parte alta, in maniera simbolica, sono riportate onde estreme e tutte le variabili e le formule che per calcolare questo fenomeno e che entrano in gioco nel processo chimico-fisico. E invece accanto al muro avevo finalizzato anche questa scultura di 7 metri in ferro, che è un attrattore, diciamo, che mette in luce una che potrebbe essere una delle soluzioni, sicuramente nel campo delle soluzioni, che sono un giardino di piante autoctone, che sono le piante di barena e costiere che servono per mitigare il livello del mare, le maree, e che da sempre proteggono Venezia e la laguna dal mare. E poi all'interno di questo stesso progetto artistico c'è però anche un convegno scientifico. Chi partecipa? Ci saranno, insomma, professori sia di UAB che di Ca' Foscari, che scienziati, quindi persone dal mondo dell'arte e dal mondo della scienza. Che poi è anche il suo mondo, no? Essendo lei ingegnere, insomma, non è un mondo lontano. Io sì, diciamo, incarno entrambe le cose, avendo fatto l'ingegnere, ricercatore e poi l'artista, però sono due mondi che difficilmente si parlano, ed è interessante invece che questi concetti vengano affrontati da un punto di vista multidisciplinare. Infine approdiamo all'ultimo appuntamento di oggi. Dal mare andiamo in campagna e parliamo dell'iniziativa Alleviamo la Salute di Coop, che vuole ridurre e quando possibile eliminare l'uso di antibiotici negli allevamenti di animali da reddito. Dopo polli e alcuni prodotti da suino, il progetto era arrivato a coinvolgere i bovini, vitellone e scottona, allevati senza l'uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi di vita, almeno per ora, poi si penserà all'intero ciclo di vita. Oltre all'adesione alla campagna, Coop ha chiesto ai suoi fornitori di aprire le porte dei loro allevamenti e così noi abbiamo potuto visitare quello della società agricola Marchesini di Rosate, che è una località a sud di Milano, e tra l'altro questo è uno dei maggiori fornitori di Coop. Lì ci ha spiegato il progetto Renata Pascarelli, che è il direttore qualità di Coop Italia. Allevamenti aperti, nasce. Questa è la prima, il primo giro. Nasce appunto con l'idea di aprire i nostri allevamenti per far vedere come vivono e che quello che stiamo raccontando effettivamente sia realtà. Questo è il primo giro che ha coinvolto 10 allevamenti. Poi in realtà in alcuni non abbiamo avuto tutte le adesioni per cui abbiamo posticipato. Questi allevamenti, che poi diventeranno molti di più, saranno aperti ai nostri soci durante tutto l'inverno e ripeteremo queste edizioni in primavera per rifare vedere ancora ai nostri consumatori come quindi i nostri animali. Quindi uno che è venuto qui oggi può venire magari in primavera e vedere se il programma è stato compiuto o se c'è ancora. Certo, ma noi appunto siamo molto determinati, ci crediamo molto, riteniamo che siamo la prima catena distributiva italiana, siamo una cooperativa di consumatori, abbiamo 1600 allevamenti con più di 24 milioni di animali coinvolti e quindi pensiamo di poter aumentare il benessere degli animali e di cambiare il paradigma di allevamento anche in Italia, perché possiamo dimostrare che allevare bene sì che si può fare. Bene, con gli allevamenti della Coop noi ci fermiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Saremo a Ecomondo la prossima settimana e quindi parleremo ovviamente di tutto ciò che è connesso a Ecomondo, ma in particolare parleremo di raccolta differenziata con Conai. Alla prossima!